Esperienze importanti durante l'ascesa ai mondi superiori sono gli incontri con il guardiano della soglia. In sostanza ve ne sono due, uno piccolo ed un altro grande. Il discepolo incontra il primo quando i fili che uniscono volontà, pensiero e sentimento cominciano a sciogliersi nei corpi più sottili, corpo astrale e corpo eterico, come è stato descritto nel capitolo precedente. Incontra il grande guardiano della soglia quando lo scioglimento dei legami si estende fin nelle parti fisiche del corpo, e cioè soprattutto nel cervello. Il piccolo guardiano della soglia è un essere indipendente. Non esiste per il discepolo fino a quando questi non abbia raggiunto il corrispondente gradino di evoluzione. Qui si possono indicare soltanto alcune fra le sue peculiarità più essenziali. Anzitutto, si cercherà di descrivere in forma narrativa l'incontro del discepolo col guardiano della soglia. Soltanto da quell'incontro il discepolo si accorge che pensare, sentire e volere si sono in lui disciolti dalla loro connaturata unione. Al discepolo si presenta un essere veramente orribile, spettrale, ed ha bisogno di tutta la presenza di spirito e di tutta la fede nella sicurezza della via della conoscenza che ha potuto acquisire durante il corso del suo discepolato nell'occultismo. Il guardiano rivela il proprio significato ad un dipresso con le seguenti parole. Fino ad ora, su di te, dominavano potenze che ti erano invisibili. Operavano in modo che durante il corso delle tue vite passate, ogni tua azione buona avesse la sua ricompensa ed ogni tua azione cattiva avesse tristi conseguenze. Attraverso la loro influenza, il tuo carattere si è formato col frutto delle esperienze della tua vita e dei tuoi pensieri. Esse determinarono il tuo destino, stabilirono la misura di gioia e di dolore che ti veniva assegnata in una delle tue incarnazioni, a seconda della tua condotta nelle incarnazioni precedenti. Dominavano su di te nella forma della legge universale del karma. Quelle potenze abbandoneranno adesso una parte delle loro redini, parte del lavoro che facevano su di te. Devi ormai compierlo da solo. Molte sventure ti hanno finora colpito. Non ne sapevi il perché. Erano conseguenze di tue cattive azioni in una delle tue vite precedenti. Trovasti felicità e gioia e le accogliesti, anch'esse erano l'effetto di azioni passate. Nel tuo carattere hai alcuni lati belli, alcune macchie brutte, degli uni e delle altre sei tu stesso la causa per via delle tue esperienze e dei tuoi pensieri passati. Finora non conoscevi le cause, ti erano manifesti solo gli effetti. Le potenze karmiche vedevano però tutte le azioni delle tue vite precedenti, i tuoi pensieri e sentimenti più reconditi. Di conseguenza, hanno determinato ciò che ora tu sei e come tu ora vivi. Ora, però, devono esserti rivelati tutti gli aspetti buoni e quelli cattivi delle tue vite passate. Essi erano fino ad ora intessuti nella tua stessa entità, erano in te e tu non li potevi vedere, come fisicamente non puoi vedere il tuo cervello. Ora si svincolano da te, escono dalla tua personalità. Assumono una forma indipendente che puoi vedere, come vedi le pietre e le piante del mondo esterno. Sono io stesso l'entità che si è formata un corpo con le tue azioni nobili e con quelle cattive. La mia figura spettrale è tratta dal libro del dare e avere della tua vita. Mi hai portato invisibile in te fino ad ora e Era per il tuo bene che così fosse, poiché la saggezza del tuo destino, che ti rimane nascosto, ha lavorato fino ad ora in te all'eliminazione delle macchie brutte della mia figura. Ora, poiché sono uscito da te, anche questa saggezza nascosta ti ha abbandonato. D'ora innanzi non si occuperà più di te, affiderà il lavoro solo alle tue mani. Io devo diventare un'entità perfetta e splendida per non essere distrutto. Se così fosse, trascinerai meco anche te in un mondo oscuro e guasto. Per evitarlo, occorre che la tua saggezza diventi ora tanto grande da poter assumere il compito della saggezza che ti era nascosta e che ti ha abbandonato. Quando avrai varcato la mia soglia come figura visibile, io non mi staccherò più per un solo istante dal tuo fianco. Se d'ora in poi opererai o penserai qualcosa di non giusto, percepirai subito la tua colpa riflettersi in un contorcimento orribile e demoniaco della mia figura. Soltanto quando avrai compensato tutti i tuoi passati errori e ti sarai purificato in modo che ti sia del tutto impossibile commettere altro male, allora il mio essere si trasformerà in bellezza risplendente. Per il bene della tua ulteriore attività, potrò unirmi di nuovo con te in un unico essere. La mia soglia è però costruita di tutti i sentimenti di paura che sono ancora in te, del tuo timore di fronte alla forza che ti occorre per assumere la completa responsabilità delle tue azioni e dei tuoi pensieri. Finché ti manca il coraggio di prendere da te la direzione della tua sorte, questa soglia non è completata di tutto quanto deve avere. E finché le manca sia pure un sol mattone, tu sarai condannato a rimanerle di fronte o ad inciamparvi. Non tentare di varcarla prima di esserti del tutto liberato dalla paura e di sentirti pronto ad assumere la più alta responsabilità. Fino ad ora uscivo dalla tua personalità soltanto quando la morte ti richiamava dal corso di una vita terrena. Anche allora la mia figura rimaneva per te velata. Potevano vedermi soltanto le potenze del destino che dominavano su di te e, a seconda del mio aspetto, nelle pause intermedie fra la morte ed una nuova nascita, potevano elaborare in te forza e capacità affinché, in una nuova vita terrena, tu potessi lavorare all'abbellimento della mia figura per il bene della tua evoluzione. Ero io stesso che per la mia imperfezione costringevo le potenze del destino a ricondurti sempre in nuove incarnazioni sulla terra. Quando tu morivi, io rimanevo e a causa mia le potenze che dirigono il karma determinavano la tua nuova nascita. Solo portandomi in questo modo inconsapevolmente a perfezione attraverso sempre nuove vite, ti saresti liberato dalle potenze della morte. Unendoti completamente a me, saresti passato all'immortalità unito con me. Eccomi, oggi visibile dinanzi a te, come invisibile ti sono sempre stato vicino nell'ora della morte. Quando avrai varcato la mia soglia, entrerai nei regni in cui prima entravi soltanto dopo la morte fisica. Tu entri in essi con piena conoscenza e d'ora in poi, mentre ti aggiri visibile sulla terra, ti aggirerai in pari tempo nel regno della morte, che però è il regno della vita eterna. Io sono realmente anche l'angelo della morte, ma al tempo stesso il portatore di un'imperitura vita superiore. Nel corpo vivente tu morirai attraverso di me per sperimentare la nuova nascita nell'esistenza imperitura. Nel regno in cui ormai tu entri, conoscerai esseri di natura soprasensibile. In esso parteciperai alla beatitudine, Ma la prima conoscenza in quel nuovo mondo devo essere io stesso, io che sono la tua creatura. Prima vivevo della tua vita, ma ora, per mezzo tuo, mi sono destato ad un'esistenza autonoma e ti sto dinanzi come giudice visibile delle tue azioni a venire, forse anche come tuo costante rimprovero. Tu hai potuto crearmi, hai però assunto al tempo stesso il dovere di trasformarmi. Ciò che qui è stato accennato sotto forma di narrazione non va pensato come qualcosa di simbolico, ma come un'esperienza della massima realtà per il discepolo. Il guardiano lo deve ammonire di non procedere oltre, se non sente in sé la forza di soddisfare le richieste contenute nel discorso succitato. Per quanto orribile possa essere la figura del guardiano, essa tuttavia è soltanto l'effetto della passata vita del discepolo, è soltanto il suo carattere destato a vita indipendente al di fuori di lui. Tale risveglio avviene con il cessato collegamento fra volontà, pensiero e sentimento. È già un'esperienza profondamente significativa sentire per la prima volta di avere noi stessi generato un essere spirituale. La preparazione del discepolo deve mirare a sopportare senza alcun timore la spaventosa visione e, nel momento dell'incontro, sentire la propria forza cresciuta a tal segno da poter in piena coscienza incaricarsi del perfezionamento del guardiano. Come conseguenza di aver felicemente superato l'incontro col guardiano della soglia, la prossima morte fisica del discepolo diventa un evento del tutto diverso da quanto non fossero prima le morti. Egli sperimenta con coscienza la morte, in quanto depone il corpo fisico come ci si spoglia di un abito usato o diventato inservibile per uno strappo improvviso. Allora, quella sua morte fisica è, per così dire, un fatto importante soltanto per gli altri che vivono con lui e che con le loro percezioni sono ancora del tutto limitati al mondo sensibile. Per loro il discepolo muore. Per lui nulla di importante si modifica nell'ambiente che lo circonda. Tutto il mondo soprasensibile in cui egli entra era aperto dinanzi a lui anche prima che morisse, e lo stesso mondo continuerà a stare dinanzi a lui anche dopo la morte. Il guardiano della soglia è però connesso anche con dell'altro. L'uomo è parte di una famiglia, di un popolo, di una razza. La sua azione in questo mondo è legata alla sua appartenenza ad una data collettività. Vi si ricollega anche il suo particolare carattere. L'azione cosciente dei singoli non è affatto l'unico elemento che occorre considerare in una famiglia, in una stirpe, in un popolo o in una razza. Esiste un destino della famiglia, del popolo e così via, come vi è un carattere di famiglia, di razza e così via. Per chi è limitato ai suoi sensi, queste cose rimangono concetti generici e il pensatore materialistico, con i suoi pregiudizi, considererà con disprezzo l'occultista quando sentirà che il carattere della famiglia o del popolo, il destino della stirpe o della razza sono da assegnarsi ad essere reali, così come il carattere e il destino del singolo sono da attribuirsi ad una reale personalità. L'occultista, appunto, impara a conoscere mondi superiori nei quali le singole persone sono parti costitutive come le braccia, le gambe e la testa sono membra dell'individuo. Nella vita di una famiglia, di un popolo, di una razza, oltre all'azione dei singoli, agiscono anche le anime realmente esistenti nella famiglia, nel popolo e negli spiriti delle razze. In un certo senso, i singoli uomini sono anzi soltanto gli organi esecutivi delle anime, delle famiglie e degli spiriti delle razze. Con completa verità si può dire, per esempio, che l'anima di un popolo si serve del singolo individuo appartenente al suo popolo per eseguire determinati compiti. Le anime dei popoli non discendono fino alla realtà sensibile, si muovono nei mondi superiori e per agire nel mondo fisico sensibile si servono degli organi fisici del singolo individuo. In un senso superiore vanno proprio come un architetto che si serve degli operai per costruire i particolari di un edificio. Ad ognuno, nel più vero senso della parola, viene assegnato il suo compito dall'anima della famiglia, del popolo o della razza. Chi però è limitato dai sensi non viene affatto iniziato ai disegni superiori a cui la sua opera deve servire. Egli lavora incoscientemente ai fini delle anime di popolo, di razza e così via. Dal momento in cui il discepolo incontra il guardiano della soglia, non deve soltanto conoscere i compiti che personalmente gli spettano, ma collaborare a quelli del suo popolo, della sua razza. Ogni allargarsi del suo orizzonte gli impone in ogni caso anche maggiori doveri. Quel che in effetti succede è che il discepolo aggiunge un nuovo corpo al suo corpo animico più tenue, indossa un abito di più. Fino ad allora egli aveva percorso il mondo con gli involucri che rivestivano la sua personalità, a ciò che doveva compiere per la sua comunità, per il suo popolo, per la sua razza. Provvedevano gli spiriti superiori che si servivano della sua personalità. Una nuova rivelazione che gli viene fatta dal guardiano della soglia è che da ora in poi quegli spiriti non lo guideranno più. Egli deve uscire del tutto dalla comunità. Come singolo si irrigiderebbe completamente, andrebbe incontro alla propria distruzione se non acquisisse da solo le forze che sono proprie agli spiriti dei popoli e delle razze. Molti diranno di essersi del tutto liberati da ogni vincolo di stirpe e di razza, di voler essere soltanto uomo e nient'altro che uomo. Allora bisogna però dire: chi ti ha condotto in tale libertà? Non è forse la famiglia che ti ha collocato nel mondo, nella posizione in cui ti trovi? La tua stirpe, il tuo popolo, la tua razza non ti hanno portato a ciò che sei? Essi ti hanno educato. Se tu sei superiore a tutti i pregiudizi, se sei un portatore di luce, un benefattore della tua stirpe o anche della tua razza, ne vai debitore alla loro educazione. Anche quando dici di te stesso che sei soltanto uomo, che tu sia così, lo devi agli spiriti delle tue comunità. Soltanto il discepolo impara a conoscere che cosa significhi essere abbandonato dagli spiriti del popolo, della stirpe, della razza. Egli solo sperimenta su di sé il non valore di ogni educazione per la vita che ora gli sta davanti, perché tutto quello che gli era stato insegnato si dissolve appieno in seguito alla rottura dei fili fra volontà, pensiero e sentimento. Egli volge indietro lo sguardo a tutti i risultati dell'educazione passata, come si potrebbe guardare una casa che si stia sgretolando nei suoi singoli mattoni e che si deve ormai riedificare in nuova forma. Ancora una volta è più che di un semplice simbolo. Quando si dice, dopo che il guardiano della soglia ha espresso le sue prime richieste, dal posto dove si trova si scatena un vento vorticoso che spegne tutte le luci spirituali che fino ad allora avevano illuminato il cammino della vita. Dinanzi al discepolo si stende un'oscurità completa, che viene interrotta soltanto dal chiarore che irradia dal guardiano della soglia stesso. Dall'oscurità risuonano i suoi moniti ulteriori. Non varcare la mia soglia se prima non sei sicuro di potere tu stesso illuminare l'oscurità che ti sta dinanzi. Non muovere un sol passo innanzi prima di acquisire la certezza di avere olio sufficiente per la tua lampada. Le lampade delle guide che hai avuto fino ad ora ti mancheranno nell'avvenire. Dopo queste parole, il discepolo deve voltarsi a guardare dietro di sé Il guardiano della soglia allontana allora la cortina che fino a quel momento aveva nascosto profondi segreti della vita. Gli spiriti della stirpe, del popolo e della razza si rivelano nella loro piena attività. Il discepolo vede con chiarezza come finora era stato guidato e d'altra parte si rende conto che da ora in poi non avrà più quella guida. È un secondo avvertimento che dinanzi alla soglia il discepolo riceve dal guardiano. Senza preparazione, nessuno potrebbe sopportare la visione ora descritta, ma la disciplina superiore, che dà in generale la possibilità di giungere fino alla soglia, pone al tempo stesso in condizione di trovare al momento giusto la forza necessaria. In effetti, la disciplina può essere tanto armonica da togliere all'ingresso nella nuova vita ogni carattere di tumultuosa agitazione. L'esperienza del discepolo dinanzi alla soglia può essere infatti accompagnata da un presentimento della beatitudine che formerà la nota dominante della sua nuova vita. Il sentimento della nuova libertà predominerà su tutti gli altri. E con esso i nuovi doveri e le nuove responsabilità gli si paleseranno come qualcosa che l'uomo deve assumersi ad un dato gradino della vita.